sono già stanchi, io sono accanto a te, pronto a difenderti. Da chi vorrebbe farti solo su, se dormirai, se dormirai, ci sarò. Sono qui solo a parlarti e poi accarezzarti il cuore come fai tu da solo qui con te e dolcemente insieme ed arrivare lì dove non siamo stati mai. Vorrei che fossi andiamo a poi prendermi per mano e volare su, su dove il cielo è lì, pronto ad accoglierci e stare 7 metri su di lui. Se dormirai, se dormirai, ci sarò. Ci sarò e non più incubi da solo tu avrai. Se dormirai io sarò qui perché tu sei la mia vita e per sempre insieme a noi. Le mani sul mio cuore, come vorrei che il tempo non finisse per sempre stare qui tutta la notte. Tutta la notte solo.